Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, con te Gianluca parliamo di rete, nel senso non quella che si fa nel calcio, ma quella che abbiamo ormai sempre a disposizione tramite i nostri palmari, cellulari, tablet e personal computer. Sì Francesco, perché parliamo un po' di truffe online, ne parliamo anche perché c'è una bella indagine promossa da un'agenzia di comunicazione Found, che racconta un po' appunto da un po' di dati su quello che sta succedendo nei nostri computer, nel nostro internet quotidianamente, nelle nostre mail, nelle quali nessuno di noi è esente da ritrovarsi appunto delle mail sospette, delle mail truffaldine, insomma delle mail che possono anche creare dei grossi problemi. Al di là dello spam, che vabbè, quella è pubblicità aggressiva, noi conosciamo benissimo, sappiamo benissimo invece che i problemi più grandi derivano dal famoso phishing, comunque dalle identità rubate, dalla sottoscrizione di abbonamenti non graditi, l'albergo fantasma, la richiesta di l'annuncio di vincite clamorose, e questo insomma credo che tutti noi l'abbiamo vissuto, lo viviamo quotidianamente. Adico segue vari casi di questioni di questo tipo, anche se chiaramente la prima cosa da fare, lo diciamo subito, è quello di denunciare sempre alla polizia postale nel caso appunto quando si abbocca a questo tipo di truffe. Ora partiamo appunto dall'indagine di Found, che racconta come il 42% del campione degli intervistati, sono 2500 intervistati uomini e donne di varie età, compresi tra i 18 e i 65 anni, il 42% dicevo degli intervistati dichiara di trovare quotidianamente nella propria casella postale delle mail sospette e che rimandano a dei siti poco affidabili. Faccio un esempio classico, Francesco. Sì. Molto spesso, perché me lo ritrovo anch'io, mi ritrovo delle mail di Poste Italiane. Ebbene, qualche tempo fa, andando proprio a un incontro con Poste Italiane, abbiamo saputo che in realtà Poste Italiane non manda mai mail, quindi noi sappiamo che se vediamo una mail delle Poste Italiane c'è qualcosa di sospetto. Ecco, tanto per fare un esempio classico, in realtà poi se ne potrebbero fare tantissime, classicissima anche l'annuncio di una vincita clamorosa o di essere stati selezionati come milionesima persona e quindi ho vinto il cellulare, la macchina, eccetera. Certo. Ne vediamo di tutti i tipi, e infatti il 42% degli intervistati dice che si trova delle mail di questo tipo tutti i giorni, un 38% dice di riceverle almeno una settimana, insomma, con grande frequenza, mentre solo l'8% afferma di vederne poche al mese. Comunque diciamo che tutti dicono che qualche mail sospetta arriva sempre in un dato periodo. Ecco, ricordiamo che in questo caso è consigliabilissimo non aprire mai i file allegati. Francesco, chiaramente è questo che bisogna fare, non apriamo perché tanto nessuno ci regala niente, lo sappiamo benissimo, quindi se abbiamo veramente vinto qualcosa certamente non ce lo dice una mail così casuale da che arriva da gente che non conosciamo. Infatti è simpatico, perché simpatico per modo di dire, e le truffe più comuni sono proprio le vincite di premi sensazionali denunciate dal 36% degli intervistati, e anche offerte di prove gratuite di varie cose, insomma, che questo è un classicissimo, e di solito fatte attraverso pubblicità poco affidabili. Però insomma abbiamo visto che appunto ci sono state delle truffe quest'estate, ce ne sono state denunciate molte anche di strutture ricettive fantasma, per cui io mando una caparra a una persona totalmente sconosciuta e per poi accorgermi che questa persona sparisce, quindi la mia vacanza salta clamorosamente e la mia caparra viene persa. E pensa Francesco, che questo mi ha lasciato un po' stupito, a cascarci sono soprattutto i giovanissimi, e in pole position ci cascano soprattutto i ragazzi tra i 18 e i 23 anni. perché chiaramente sono anche quelli che utilizzano di più internet, magari le persone più anziane, la vediamo anche questo molto spesso all'Adico, sono più vittime di, per esempio, di venditori porta a porta, quindi di truffe non online. Questa situazione delle truffe online ha fatto sì anche che sia aumentata esponenzialmente la sfiducia nei ragazzi nei confronti appunto di questi mezzi. Infatti un italiano su due, sempre secondo la ricerca, stabilisce con il web un rapporto un po' controverso, cioè è sempre sul web, lo frequenta, però è spesso insicuro dei suoi contenuti, quindi ha paura appunto di finire vittima di un inganno. Tra i raggiri più temuti, al di là appunto di delle truffe più comuni, i raggiri, quindi diciamo qualcosa di meno impattante rispetto alla truffa, il primo in assoluto è in classifica è il phishing, che quindi appunto è il furto dei dati, che avviene tramite appunto la, solitamente i cracker, vengono chiamati così, copiano la grafica di importanti siti di banche, di assicurazioni o di compagnie telefoniche, oppure delle poste, come dicevo prima, e ci chiedono appunto di inserire determinati dati che così finiscono nelle loro mani. Al secondo posto ci posizionano i virus, e questo sappiamo benissimo quanti guai possano provocare anche a un'azienda, e devo dire che ci sono esperienze molto negative da questo punto di vista, quindi anche là attenzione alle mail che apriamo, perché potremmo appunto essere infettati da un virus che a questo punto può anche cancellare molti dati del nostro PC, nonché rubare molti dati. Lo spam chiaramente è qualcosa di diverso, è una pubblicità indesiderata, però può creare l'invasamento della nostra casella. Ora, in questo ambito altri problemi si verificano quando noi andiamo ad effettuare lo shopping online, quindi gli acquisti online. La Polizia di Stato ha, diciamo, diffuso una serie di consigli per evitare appunto di cadere in trappole dello shopping online. Li riassumo brevemente. E anzitutto la Polizia di Stato consiglia di utilizzare sempre software e browser completi e aggiornati, e consiglia anche di dare preferenze a siti certificati o ufficiali. Chiaramente, Francesco, molti consigli possono sembrare banali, ma non è sempre così, perché tante persone in realtà non li seguono, anche se dovrebbe essere abbastanza ovvi. Poi, ecco, quando si va ad acquistare tramite un sito, bisogna sempre assicurarsi che dietro questo sito ci sia davvero poi un negozio reale esistente che invia poi la merce. Un consiglio potrebbe essere: andate a vedere se esiste quell'indirizzo, se su Google Map magari c'è la foto di quel negozio. Esattamente questo, perché se c'è il negozio noi siamo tranquilli, anche perché casomai possiamo contestare nei confronti di un luogo fisico. Altra cosa importante è anche quella di leggere i commenti, i feedback di altri acquirenti. Questo, diciamo, che è una consuetudine che in realtà molti navigatori utilizzano per capire la reale serietà di un'azienda. E poi anche per quanto riguarda gli utilizzatori di smartphone o tablet, quindi chi acquista tramite smartphone o tablet, il consiglio è quello di utilizzare sempre le applicazioni ufficiali nei negozi online. Poi ultimo consiglio, questo forse non tutti lo seguono, è quello di utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili nel momento in cui facciamo appunto shopping online. E per quanto riguarda la spedizione, la cosa migliore è scegliere sempre una spedizione tracciabile e assicurata, così possiamo insomma sempre sapere dove si trova la merce che abbiamo richiesto. Potremmo pagare qualcosetta in più, però siamo sicuri che ci arriva. Esattamente. Va bene, abbiamo dato parecchi consigli, ma abbiamo anche esaurito il nostro tempo. Ricordo che c'è sempre l'Adico a disposizione, www.associazionedifesaconsumatori.it il sito. Grazie a Gianluca Codognato, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.